che applichi strettamente e in fretta gli impegni presi con la lettera presentata ai vertici europei. E proseguono le consultazioni al Quirinale, Alfano, no a giochini di palazzo, resteremo al governo fino al 2013, Napolitano, valuterò gli sviluppi. Scattano le evacuazioni nel Levante Ligure, colpito dall'alluvione del 25 ottobre, si temono nuove piogge e nuove frane. Buona giornata dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. In primo piano naturalmente l'attesissimo vertice del G20 a Cannes, un vertice che è stato preceduto questa mattina da una girandola di incontri bilaterali e non solo. Osservati speciali, come sapete, la Grecia e l'Italia. La prima con il governo Papandreou, che ha convocato un consiglio dei ministri d'emergenza. Il gruppo parlamentare a maggioranza socialista avrebbe infatti minacciato di far cadere l'esecutivo al voto di fiducia in programma per domani. E con la caduta del governo greco non si terrebbe più il referendum in calendario per il 4 dicembre. La Grecia ha fatto anche sapere di avere risorse finanziarie solo fino a metà dicembre. L'Italia invece, l'altro osservato speciale, come dicevamo, si presenta con un maxi emendamento, non un decreto, approvato in fretta e furia ieri sera al Consiglio dei Ministri. Ma ripartiamo dai lavori del G20 di Cannes, sentiamo come stanno andando, ci colleghiamo dunque con Cannes, con il corrispondente del Sole 24 Ore, Marco Mussanè. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi. Allora, come dicevamo stamattina, girandola di incontri, Sarkozy e Obama si sono incontrati, insomma facciamo il punto dei lavori delle ultime ore. Beh sì, questa mattina ci sono stati, diciamo, due mini vertici, uno quello dei paesi dell'euro che fanno parte del G20, quindi Germania, Francia, Italia e Spagna, in quale invitato permanente. L'incontro è finito poco fa e non si conoscono ancora i risultati, e un vertice dei BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, per prepararsi per trovare una posizione comune con cui presentarsi al vertice di oggi e domani. Ci sono stati poi due bilaterali importanti, del presidente americano Obama con Sarkozy, il primo, e il secondo con la cancelliera tedesca Merkel. Qual è la sensazione, Marco, insomma, che i lavori stiano procedendo spediti o che si concluderà tutto con un nulla di fatto? Perché insomma le questioni sul tavolo sono tante. La sensazione intanto è che quello che avrebbe dovuto essere il vertice dedicato alla ripresa con l'Europa, che si presentava con i compiti fatti per chiudere in bellezza l'anno di presidenza francese del G20, si è trasformato in realtà nell'ennesimo vertice di crisi sulla Grecia, sull'Italia, sull'Europa, con gli Stati Uniti e i paesi emergenti che assistono un po' sconcertati all'incapacità del vecchio continente di venire a capo dei suoi problemi. Quindi l'agenda dei lavori è stata completamente stravolta. La prima sessione che comincia adesso con il tranche del lavoro e poi nel primo pomeriggio, che doveva essere dedicata alla situazione economica mondiale e alle misure di rilancio della crescita, sarà invece dedicata ancora una volta al tema dell'Europa, quanto ai risultati, francamente a questo punto la speranza è che si esca da questo vertice almeno con una maggiore, diciamo, credibilità dell'Europa sulla sua capacità di risolvere i suoi problemi. Certo. L'unico altro elemento che sembra destinato a fare qualche passo avanti, sia pure timido, è quello della tassazione sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta Tobin Tax. Ne hanno parlato nel loro bilaterale Sarkozy e Obama stamattina, e stando almeno alle dichiarazioni del presidente francese ci sarebbe una posizione, diciamo, meno rigida, meno ostile da parte degli Stati Uniti sul varo di questa tassa, e quindi è possibile che nel documento finale, nel comunicato finale di domani, se ne faccia parola. Un piccolo passo avanti su questo fronte. Grazie a Marco Mussanè. Passiamo invece al capitolo tutto italiano. Sappiamo che ci sono a Cannes il ministro Tremonti e il presidente del Consiglio Berlusconi, un'Italia che sta cercando di rassicurare i vertici europei e non solo della stabilità del paese. In diretta ancora da Cannes, il collega del Sole 24 Ore, Gerardo Pelosi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Sì, un'impresa non certo facile quella che si trova a dover svolgere il Presidente del Consiglio italiano, che è giunto questa mattina e ha avuto subito come primo impegno la partecipazione ai paesi, a questo Eurogruppo, cioè i paesi dell'Eurozona che fanno parte del G20, quindi oltre all'Italia, alla Germania della Merkel, la Francia di Sarkozy e la Spagna di Zapatero. Oltre a loro sono presenti anche il Presidente della Commissione Barroso, il Presidente del Consiglio UE Van Rompuy, la Lagarde, il Presidente del Fondo Monetario e un rappresentante della BCE. Come è stata accolta l'Italia? Come è stata accolta con questo maxi emendamento in mano, non un decreto, come dicevamo? È difficile dire come è stata accolta perché l'incontro è ancora in corso e si sa molto poco. Però è chiaro che Berlusconi ha cercato di spiegare le difficoltà anche interne che si sono registrate ieri. L'ultima volta nel Consiglio europeo di una settimana fa il cancelliere tedesco aveva sollecitato Berlusconi di arrivare con un voto in Parlamento, cioè di arrivare con una piena legittimazione sui provvedimenti che sono al centro della lettera che era stata inviata all'Unione europea. E qui non solo non c'è un'approvazione da parte del Parlamento, ma c'è addirittura una maggioranza che si sta sfaldando. La lettera dei ribelli, cioè il cuore antico di Forza Italia, gli ex Falchi, la Strappadagno, Bartolini. Assolutamente, una maggioranza che si sgretola. Gerardo, scusami, sono costretti a questa convivenza Tremonti e Berlusconi a Cannes. Come hanno viaggiato insieme sull'aereo? Chissà se si sono scambiati insieme sull'aereo, solo una parola almeno. Non c'è traccia, pare che si siano ovviamente parlati, addirittura ieri circolavano voci di scontri quasi fisici tra i due, ma chi conosce Berlusconi e anche Tremonti sa che i due insomma non verrebbero mai, come dire, non scenderebbero mai. E ci mancherebbe, sarebbe davvero l'epilogo. Il clima è comunque quello, e certo non è una cosa che può aiutare un paese dove questa mattina lo spread è volato oltre i 460 punti, c'è una necessità di rassicurare i mercati, una rassicurazione che non sia soltanto delle misure ma anche una rassicurazione di discontinuità politica. Grazie a Gerardo Pelosi da Cannes. E mentre il governo italiano, come abbiamo sentito, è al banco di prova con i vertici europei, non solo, Napolitano continua il suo lavoro invece a Roma, cerca di rassicurare l'Europa. Tutte le forze politiche sono consapevoli dei problemi, ha detto un Napolitano che stamattina ha proseguito il suo giro di consultazione appunto con le varie forze politiche. In diretta da Roma, Elisabetta Fiorito. Sì, mattinata confusa sul fronte politico, continuano le consultazioni parallele del Quirinale, questa mattina è stata la volta della Lega Nord, meglio il voto, ha spiegato Umberto Bossi al capo dello Stato Giorgio Napolitano, che un governo tecnico. E il Presidente della Repubblica dice anche che valuterà se è il caso di aprire una crisi sulla base dell'attività del Parlamento. Poi rassicura sulla tenuta e sulle forze politiche, sono tutte consapevoli della priorità degli obiettivi di risanamento attraverso sforzi coerenti e costanti nel tempo. Stamattina anche l'incontro al Quirinale con il segretario PDL Angelino Alfano, alle prese con i dissidenti. Sentiamo a questo proposito uno dei dissidenti, Isabella Bertolini, al microfono di Alessandro Milan. Non mi sento una traditrice perché so di aver assunto una posizione con grande consapevolezza di fronte a una situazione straordinaria che certamente non auguravo per il mio paese. Cosa volete da Berlusconi? Noi vogliamo un cambio di passo. Devo dire che con grande onestà noi abbiamo iniziato da quest'estate a chiedere al presidente Berlusconi un cambiamento. E sono sei, insieme a Isabella Bertolini, dissidenti firmatari della lettera che appunto chiede al premier Silvio Berlusconi un cambio di passo. Critici anche Saro, Pisano e Antonione, quest'ultimo ha anche annunciato la formazione di un gruppo autonomo. Tra le voci fuori dal coro si aggiunge questa mattina quella del vicepresidente PDL della Commissione Lavoro, Giuliano Cazzola, che pur non sottoscrivendo la lettera dei dissidenti chiede al premier Silvio Berlusconi di dimettersi. E per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. E a Francoforte oggi il debutto in conferenza stampa del neo presidente della Banca Centrale Europea, l'italiano Mario Draghi. È arrivato invece a Francoforte questa mattina Ignazio Visco, che ha preso il suo posto alla guida di Banca Italia. Un Visco che si è detto preoccupato per la situazione. Da Francoforte il collega del Sole 24 Ore, Alessandro Merli, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, partiamo dalle parole di Visco, ce le racconti? Ma Visco ha voluto un po' precisare una cosa che è uscita ieri a Roma, che è il rapporto sulla stabilità finanziaria fatto dalla Banca d'Italia. Come era stato interpretato, sembrava che la Banca d'Italia ritenesse accettabili e sostenibili tassi di interesse per l'Italia all'8%, il che sicuramente non ha fatto piacere ai mercati. Visco ha precisato che questa situazione è possibile e compatibile solo se vengano adottate tutte le misure di risanamento del bilancio pubblico che portino il bilancio in pareggio, non solo, ma anche tutte le riforme strutturali che possano rilanciare la crescita, perché senza crescita, ha detto, non è possibile abbassare il debito pubblico, e questa deve essere la priorità. E poi comincia oggi il mandato di Mario Draghi, si è cominciato da qualche giorno, ma insomma oggi la prima conferenza stampa in un momento davvero molto difficile, e non solo perché Mario Draghi è italiano. Beh, sicuramente Draghi, che ha cominciato il lavoro alla BCE ieri l'altro, non ha avuto una partenza facile data la situazione in Europa e anche in Italia. Si è detto che vorrà dimostrare di essere più tedesco dei tedeschi. Obiettivamente sono due i fronti su cui si troverà immediatamente impegnato. Uno è quello dei tassi di interesse, che probabilmente ancora questo mese resteranno fermi all'1,5%, ma che potrebbero essere abbassati già il mese prossimo. L'inflazione è ancora al 3% in Europa, quindi sopra il tetto della Banca Centrale Europea, però c'è una recessione in arrivo e quindi è possibile che a breve termine i tassi vengano poi abbassati. E l'altra è la questione degli acquisti dei titoli del debito pubblico europeo, compresi quelli italiani, e lì purtroppo al momento la Banca Centrale Europea è l'unico compratore di questi titoli sul mercato, e quindi credo che continuerà a comprarli, lo ha fatto anche oggi, anche se il tema è molto controverso all'interno della BCE, ma al momento credo che non ci sia un'alternativa valida. Grazie ad Alessandro Merli da Francoforte. Chiudiamo questa lunga pagina dedicata all'economia, alla crisi europea. Sentiamo come sono andate le borse questa mattina, e lo facciamo con Deborah Rosciani. Giornata convulsa, Piera, perché i listini sulla scia delle incertezze che arrivavano dal fronte del G20, dalla Grecia ma anche dall'Italia, erano partiti malissimo. Stamattina Milano è arrivata a perdere oltre 2,5 punti, ma anche Parigi un po' meno, perdevano Francoforte e Londra, ma tutte piuttosto negative. Poi, quando è arrivata la notizia relativa alle difficoltà del governo greco, ovvie, e la scommessa su nuove elezioni o sul governo tecnico, appunto, queste notizie hanno, siccome hanno l'effetto di poter far naufragare la proposta di referendum, ecco che le borse sono tornate a respirare. Sono tutte positive, ma piuttosto positive direi, perché Milano guadagna il 2,85%, Londra più 0,51%, molto meno, Parigi più 2,42%, Francoforte più 2,47%, e anche l'euro sul dollaro è decisamente brillante a 1,38,17. Un po' più di difficoltà sul mercato obbligazionario, vi do una notizia che è arrivata poco fa: lo spread fra i titoli greci a 10 anni e il Bund tedesco ha sfondato il tetto psicologico dei 2500 punti base, per cui ci possiamo anche accontentare se il nostro è sui 463 stamattina, adesso sui 440. Piera. In bilico il governo di Atene, le borse vanno su, la Merkel da Cannes avanti anche senza la Grecia. Proseguono le consultazioni al Quirinale, Alfano, no giochini di palazzo, resteremo al governo fino al 2013. Bossi, meglio le elezioni. Napolitano, valuterò gli sviluppi. E sono scattate nelle zone alluvionate dello Spezzino le evacuazioni preventive disposte dalla prefettura del capoluogo in vista della nuova ondata di maltempo. Si temono infatti nuove piogge, nuovi danni, nuove alluvioni. Quindi sentiamo com'è la situazione in una delle zone più interessate dalle piogge di questi giorni. Lo facciamo in diretta con il vice sindaco di Brugnato, Corrado Fabiani. Buongiorno. Buongiorno e grazie, Fabiani, della vostra attenzione per il nostro territorio. Ci mancherebbe altro. Fabiani, piove o non piove? Dunque, in questo momento insomma c'è un po' questa preoccupazione per questo stato di allerta imminente. Ma piove? Sta piovendo? È arrivata la pioggia? Non sta piovendo. Insomma, c'è molta, potete ben immaginare, molta preoccupazione da parte delle famiglie che sono interessate a questa evacuazione. Sono 250 persone che verranno bloccate in due location. Noi abbiamo le scuole medie proprio a ridosso del paese, che sono più sicure, e più nella zona vicino allo svincolo autostradale, il convento dei Padri Passionisti. Quindi tutto il paese dovrà spostarsi o soltanto? Queste sono le situazioni per 250 50 persone, per le altre invece si raccomanda di utilizzare il primo piano, i piani superiori, e quindi di non alloggiare né negli scantinati né al pian terreno. Assolutamente. Sono già iniziate le operazioni di evacuazione? Dalle ore 15 a portare questa comunicazione casa per casa. Va bene, Fabiani, in bocca al lupo davvero, e torneremo naturalmente ad aggiornarci nelle prossime ore, perché ci sta a cuore naturalmente quello che sta... Ovviamente noi abbiamo bisogno appunto che i riflettori non si spengano nei giorni prossimi, nelle settimane prossime. E vi assicuro che da Radio 24 questi riflettori non verranno sicuramente spenti. Tensione alla stazione Tiburtina, cambiamo naturalmente argomento, tensione alla stazione Tiburtina di Roma, dove da questa mattina è in corso una manifestazione non autorizzata degli studenti delle medie superiori, ai quali si sono aggiunti alcuni universitari. Ci sono state cariche della polizia, numerose identificazioni da parte delle forze dell'ordine. Sentiamo due studenti, Giuseppina Tucci e Francesco Santimone, dell'Unione degli Studenti, al microfono di Alessandra Schepisi. C'è attenzione perché c'è un numero enorme di poliziotti, eccetera, un numero minimo di manifestanti che ha cercato di prendersi la piazza in seguito al continuo rifiuto della polizia di lasciarci andare nonostante il tentativo di contrattazione. Ma in quanti siete? Saremmo stati almeno durante le prime ore 1.000 persone. E adesso dove siete diretti? Guardi, siamo ancora fermi alla stazione di Burtina perché non ci hanno lasciato avanti. Non si hanno lasciato andare avanti, hanno agito con abbastanza molte cariche di alleggerimento e i ragazzi hanno cominciato ad andare via. Ora c'è stato un momento di ricarica un po' più forte su un manifestante. Dall'inizio della manifestazione, da stamattina alle 9, identificano chiunque entri o esca dall'area che ormai è blindata di Tiburtina. Noi stiamo cercando di uscire da qui e la risposta che ci è stata data è stata prima, quando abbiamo tentato di partire in corteo con una carica di alleggerimento, anche se di alleggerimento è un eufemismo. Con manganelli, tra l'altro, è stato pure identificato un ragazzo che è stato picchiato da dietro da un dirigente, la polizia, quindi la situazione è abbastanza tesa. Le novità sulla morte di Yara Gambirasio, la ragazzina di Brembate Sopra nel Bergamasco, sequestrata e uccisa a pochi metri da casa un anno fa. L'assassino di Yara Gambirasio potrebbe essere parente di una delle 4.000 persone che spontaneamente si sono presentate alla polizia per sottoporsi al test del DNA. Il profilo genetico di una di queste persone giunte in questura ha delle somiglianze, quasi combacia con le tracce di DNA che l'assassino ha lasciato sugli indumenti della bambina di 13 anni uccisa un anno fa nel Bergamasco. Secondo quanto rivelato dagli investigatori, si tratterebbe di un italiano e sarebbero stati esclusi gli operai del cantiere di Mapello. Il DNA e la lettura dei tabulati telefonici stanno stringendosi attorno a qualcuno che la sera dell'omicidio aveva il telefonino collegato alla cella di Brembate Sopra o di Mapello. Alcune persone sono state chiamate a rendere conto in questura e invitate a sottoporsi al test del DNA. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. For me, Elenia is still definitely alive and she was 23 years old. Questa è la voce di Romina Power. Non ha mai smesso di cercare sua figlia Elenia e lancia un appello nel Chi l'ha visto della TV tedesca. Romina Power è convinta che sua figlia sia viva e che non si sia mai drogata volontariamente. Di Elenia Carrisi, che aveva 23 anni al momento della scomparsa, non si hanno più notizie dal 6 gennaio 94. Il primo ministro greco, un'agenzia che sto leggendo insieme a voi, Papandreou, offrirà le sue dimissioni entro mezz'ora. Sono fonti della BBC, naturalmente saremo pronti a confermarvi la notizia qualora arrivassero delle conferme in tal senso. Ora invece il nostro consueto appuntamento sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. L'evasione fiscale è anche una delle cause che può alla lunga anche consentire alle donne di lavorare di meno. Sicuramente il fatto di non avere dei servizi che possano supportare le donne, questo fa sì che poi la scelta sia quella di abbandonare il lavoro. La denuncia arriva da Adele Mapelli, docente alla SDA dell'Università Bocconi di Milano. Facciamo un esempio. Antonio cerca posto all'asilo nido per il figlio. Lavora lui e anche la moglie. Come famiglia con doppio reddito non hanno diritto diritto all'asilo. Il posto va invece a un'altra famiglia, il cui capofamiglia Pietro dichiara molto meno di quanto guadagna effettivamente e dove la moglie non lavora. Risultato, la moglie di Pietro lascia il bambino al nido e si gode il tempo libero, mentre la moglie di Antonio dovrà rinunciare al lavoro e restare a casa. Non dimentichiamoci che un terzo delle lavoratrici decide di abbandonare il lavoro con la nascita del bimbo e una delle motivazioni sempre portate è una carenza di servizi di supporto per la cura dei bimbi. Lo stesso meccanismo si ha sulle tasse universitarie, sul diritto alla mensa e sui ticket sanitari. Quando si dice che evadere significa rubare, si intende anche questo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Verrà operato domani mattina Antonio Cassano. Si tratta di un'operazione al cuore che verrà eseguita in anestesia locale da Mario Carminati, primario di cardiologia dei difetti congeniti del Policlinico San Donato. Fu lui 20 anni fa il primo al mondo ad operare al cuore una bimba direttamente nell'utero della madre. La ragazza oggi sta bene. E ieri sera le partite di Champions, con l'Inter che ha battuto il Lille 2-1 e il Napoli che ha perso 3-2 a Monaco contro il Bayern. Tanto cuore, una rincorsa entusiasmante, ma che arriva in ritardo. Il Napoli, nella tana del Bayern Monaco, riemerge quando tutto sembra perduto, ma i 2 gol di Fernandez non bastano a colmare la tripletta di Gomez. Il 3-2 finale condanna gli uomini di Mazzarri a un finale di girone difficilissimo, perché sono stati scavalcati dal Manchester City, facilmente vittorioso sul Villarreal. È un Napoli così, che dorme in difesa e poi si scatena in fiammate irresistibili. Bravo, ma non bravissimo, non ancora grande squadra nella testa. E infatti Mazzarri, per motivare la truppa, vede il bicchiere mezzo pieno. Sono contento della prestazione che hanno fatto i miei giocatori dal primo all'ultimo minuto. Abbiamo fatto qualche ingenuità e l'abbiamo pagata subito. Loro con 2 tiri si sono trovati in vantaggio 2-0. Noi abbiamo fatto 2 o 3 occasioni importanti e l'abbiamo fallite. Poi c'è il rammarico che il terzo gol non l'abbiamo fatto in tempo a fare il cambio, l'abbiamo preso in 10. Diverso il discorso per l'Inter, che con i suoi nonnetti batte il Lille e ritrova perfino Milito, finalmente sbloccato grazie anche alla pazienza di Ranieri. Questa è una squadra che ha grosso orgoglio, grossi sentimenti, per cui non sono finiti, però ecco, lo dobbiamo dimostrare partita dopo partita, anche soffrendo, anche quando non ce ne sarebbe bisogno. Una boccata d'aria, un bengala nella notte, ma nel campionato l'interruttore della luce bisogna ancora trovarlo. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora il Festival del Cinema di Roma. Oggi è la giornata di Richard Gere. Noi ci colleghiamo con la nostra inviata Marta Cagnola. Marta? Era la penultima giornata della 6ª edizione del Festival Internazionale di Film di Roma, a lui dedica le battute conclusive. Questa sera alle 19 sarà sul red carpet, introdurrà Days of Heaven, che fu il suo primo film da protagonista. Non l'ho più rivisto, ma mi dicono che era un vero principe azzurro, ha scherzato questa mattina parlando con i giornalisti in una conferenza stampa nella quale ha parlato di sé ma anche del momento storico ed economico. Ha confessato di essere molto preoccupato per chi inizia a fare il cinema oggi, ma si è detto ottimista sul futuro. Ha detto: se seguiremo il vero centro del nostro essere, amore, comprensione e generosità. Ora Richard, che domani riceverà il Marco Aurelio all'attore, è a pranzo in Campidoglio, dove il sindaco di Roma Gianni Alemanno gli consegnerà la lupa capitolina. Piera. Ecco, come dicevi tu Marta, domani si conclude il festival. Hai avuto modo di incontrare già la direttrice della manifestazione? Ecco, che voci ci sono in tal senso? Sì, una piccola conferenza stampa improvvisata, Piera De Tassis, in attesa dei dati di domani, ha dato intanto la risposta al ministro Galan, che ha promosso Roma come mercato cinematografico, ma lei ha detto il mercato non si può separare dal festival e poi ha aggiunto Roma e Venezia non potrebbero essere più diverse. Sulla scadenza del suo mandato De Tassis si è detta tranquilla, che voleva semplicemente dimostrare anche quest'anno il valore di questo festival, e dice: ce l'abbiamo fatta. Grazie Marta, grazie a Marta Cagnola dal Festival del Cinema di Roma. E noi invece chiudiamo parlando di turismo, perché torna il sereno, così almeno una nota di ottimismo sul turismo mondiale. Nel 2011 gli spostamenti internazionali sono aumentati del 4-5%, lo dice uno studio del Touring Club. Sentiamo il presidente Franco Iseppi. Si continua a viaggiare e soprattutto c'è un ritorno verso l'Europa. Che segna un punto interessante di incremento. Non mancano anche però alcune preoccupazioni, perché nel sud del Mediterraneo si sentono gli effetti della crisi geopolitica. In Egitto si è perso il 40%, in Tunisia più o meno la stessa cosa. Quindi, ecco, per quanto riguarda invece più nello specifico l'Italia? Ci sono 2 dati buoni. C'è una stima che per 2011, dove si prevede proprio un aumento della spesa